dell'amore. Posso narrarti della strada, di ogni suo sapore, odore, delle ore sfuggite fra queste dita ingiallite, delle figure sbiadite che chiameresti anime smarrite, perché le vie sono infinite. Ma un po' che non incrocio angeli e santi per queste strade, vicoli sono dei dannati in una notte infernale. Brucio il freddo invernale sotto coperte di giornale e bevo i sogni d'alcol, tieniti il tuo mondo sobrio, che ho paura che uno stronzo mentre dormo mi dia fuoco e sarà cenere alla cenere. Ma un senso di vergine sarla solo polvere sul margine di pagine, testimonianze tacite di questa vita in piena. Chiacchi come me sull'argine ha voltato la schiena, signori forse è l'ultima cena. Briciole whisky senza troppi volti in pena per sti poveri cristi. Trop de plaine, trop de froid, ho visto troppi inverni. I my life in a box, ma senza lati fermi. E ho camminato coi miei sogni, consumo melo macadam, ma senza lasciar segni. It's the path of a bum. Trop de plaine, trop de froid, ho visto troppi inverni. I my life in a box, ma senza lati fermi. E ho camminato coi miei sogni, consumo melo macadam, senza lasciar segni. It's the path of a bum. Maudit parce que différent, comme le diable j'ai mille noms. With dirty cheekbones, it's been years since I've seen home. Tu me trouves dans les villes, dans les rues ou sous les ponts. With my vodka strong, je regarde passer le temps. Life's an opera song, théâtre dramatique. The system offers me lots to drink, to pass out, cause they think I'm better off asleep. La réalité se dissout sur les pavés et les briques. Les gens m'évitent mais m'indiquent. A lost sheep, not a sale deep. Out of reach, but also out of speech. Parce que ma saleté a toujours côtoyé ton kitsch. Sleeping on a beach. Pour une chambre 5 étoiles, $100 each. Listen, votre inquiétude, j'ai fait l'habitude. Your weary face can burn in flames. Vos visages pleins de lassitude. My life terminates. Faut pas de grandes études. The streets, my pure, my dirty grave. Trop de peine, trop de froid, ho visto troppi inverni. My life in a box, ma senza lati fermi. E ho camminato coi miei sogni, consumo lo macadam, ma senza lasciar segni. It's the path of a bum. Trop de peine, trop de froid, ho visto troppi inverni. My life in a box, ma senza lati fermi. Ho camminato coi miei sogni, consumo lo macadam, senza lasciar segni. It's the path of a bum. Ho perso il conto dei miei anni, ho corso contro i miei fantasmi, addosso gli stessi panni. Tuoi, i tuoi non saprei metterli. Io non ho specchi, ho tutto il tempo per rifletterci. Ho bisogno della strada, il mio letto, il mio bagno. E ho ricordi di una vita, o forse solo un sogno. Lo seguirò dovunque vada, forse pure in capo al mondo, dove il mondo non ha capi. Sono code che si mordono, ma qui le acque si confondono, contando i pesci sotto i ponti, mentre quelli dormono, cantando ninna nanne agli ubriachi fradici, scontando le domande poste sopra punti fragili. Sto raccontando di una vita per eletti, scoperti tali perché dati per reietti. Io avrei voluto dare al mondo un figlio al giorno, firmato il nonno senza nipoti che è morto nel sonno. Trop de plaine, trop de froid, ho visto troppi inverni. I my life in a box, ma senza lati fermi. E ho camminato coi miei sogni, consumo melo macadam, ma senza lasciar segni. It's the path of a bum. Trop de plaine, trop de froid.